Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi dispiace tanto, ma vi assicuro che noi abbiamo sempre come obiettivo prioritario tutelare la salute di tutti voi cittadini. Non possiamo da una settimana all'altra cambiare obiettivo, dismetterlo e accantonarlo. Lo dobbiamo per rispetto ai morti e ai decessi che ci sono stati, ai nostri familiari, ai nonni, ai genitori, lo dobbiamo per rispetto a noi stessi, che ovviamente siamo ancora tutti bisognosi di essere protetti. Tutti bisognosi di essere protetti, questo è chiaro, perché da più parti, dal mondo scientifico naturalmente, anzi si ribadisce da tutto il mondo dei ricercatori, degli scienziati, che questa pandemia non è che sarà superata così velocemente. E oggi è tornato a ribadirlo il Presidente del Consiglio Conte, dopo che appunto domenica aveva annunciato il piano per la fase 2. Ci sono state tante polemiche, tante critiche da parte dell'opposizione, di alcune regioni, di tante categorie. Conte però oggi ha ribadito: qui bisogna muoversi con gradualità, perché sennò il rischio di un ritorno del contagio è molto concreto. Ci occuperemo quindi della situazione attuale, della pianificazione della fase 2, che in parte appunto abbiamo già anticipato anche ieri, e soprattutto di quelle che sono le reazioni politiche e delle cose che succedono anche poi per esempio nel resto d'Europa, dove la Germania aveva aperto nei giorni scorsi. Oggi c'è stata quella che è stata definita una doccia fredda, perché i contagi sono leggermente risaliti a 1, nel senso il livello di contagiosità è da 1 a 1, ogni persona può contagiare un'altra persona. Poi poco fa è leggermente sceso, ma di pochissimo, e quindi anche la Francia adesso comincia a dire: riapriremo verso l'11 maggio, ma tenendo conto dei contagi, dei dati eccetera, altrimenti non riapriamo proprio nulla. Quindi ci sarà modo di scandagliare ancora la situazione italiana, le proposte, anche a proposito per esempio dei trasporti. Sappiamo che un nodo cruciale per far ripartire il paese, almeno in parte gradualmente, è sicuramente il trasporto pubblico, però le associazioni nazionali delle aziende dei trasporti pubblici locali dicono che non è possibile mantenere le misure di distanziamento previste da questa fase 2. Insomma, tante cose da spiegare, da raccontare, da approfondire anche questa sera insieme a voi, che potete scrivere come sempre i vostri commenti o sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, durante il giorno se volete, Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. Il coronavirus in Italia, il nostro paese supera la soglia dei 200.000 contagiati totali tra malati, vittime e guariti. Risalgono i morti, sono 382 in 24 ore. Calano comunque i contagi e c'è minore pressione sulle terapie intensive. Il presidente della Lombardia Fontana dice: siamo sulla via giusta. Le polemiche sulla fase 2, regioni critiche sulle nuove misure, ma Conte sottolinea: sulle aperture non possiamo fare di più, il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto. E sul nodo cruciale dei trasporti pubblici, le associazioni nazionali del settore avvertono: nella fase 2 distanziamento impossibile sui mezzi pubblici. Le misure economiche del governo, 6 miliardi l'anno di investimenti, annuncia il ministro Gualtieri, e il decreto aprile entro la settimana. Doccia fredda in Germania, l'indice di contagio risale a 1 e poi scende di nuovo, ma di poco. La Francia parla di una graduale riapertura condizionata dai dati. Genova, oggi la cerimonia per il varo dell'ultima campata del nuovo ponte. Conte dice: il cantiere è simbolo dell'Italia che sa rialzarsi. Calcio per la Francia, il campionato non riprenderà, le altre leghe dovranno decidere entro fine maggio. Partiamo quindi come sempre dai dati relativi all'epidemia di Covid-19 in Italia, forniti dalla Protezione Civile. Il nostro paese supera la soglia dei 200.000 contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Oggi sono infatti 201.505 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 2.091. Il dato è stato reso noto appunto dalla Protezione Civile. Si conferma il calo dei malati, sono complessivamente 105.205, 108, cioè meno di ieri. Sempre tanti però purtroppo i morti, 382 in 24 ore. Calano ancora terapie intensive e ricoverati con sintomi. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, il numero degli attualmente positivi è di 105.205, con un calo di 608 rispetto a ieri. 1.863 sono in terapia intensiva, con una decrescita di 93 pazienti, e i guariti aumentano ancora di 2.317. In Lombardia i numeri sono ancora in salita, con 869 casi in più, dei quali 278 a Milano. Contagi quindi complessivamente in discesa, ma che potrebbero risalire in modo esponenziale se si riaprisse tutto, con un picco di ricoveri in terapia intensiva fino a 151.000 persone. A dirlo è una relazione riservata del Comitato Tecnico Scientifico pubblicata dal Corriere della Sera. Si tratta dell'analisi che ha spinto il governo verso la linea della prudenza. I tecnici hanno infatti segnalato al governo che c'era poco spazio di manovra sulle riaperture. Se nella realtà attuale il valore di R con 0 è inferiore a 1, avvertono gli esperti, d'altra parte ci sono ancora nuovi casi di infezione in tutto il contesto nazionale che stanno a indicare la necessità di mantenere elevata l'attenzione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proseguono il dibattito e le polemiche sulle aperture annunciate a partire dal 4 maggio. Non possiamo fare di più, dice intanto il presidente del Consiglio Conte. Il rischio di un contagio di ritorno, spiega, è troppo alto. E sul governo continua però la pressione delle regioni. Le regioni scalpitano, il governo frena e ancora una volta si prospettano aperture e divieti diversi tra un'area e l'altra. Sul takeaway, Veneto e Marche puntano ad anticipare i tempi dell'esecutivo. L'Emilia-Romagna confida di far alzare le saracinesche a bar, ristoranti e parrucchieri anche prima. La Sicilia sollecita più aperture e il presidente altoatesino propone un'apposita legge provinciale. Ma il governo è chiaro, solo dopo il 18 maggio conteranno le differenze territoriali, replica il ministro Boccia, che mette in guardia le regioni. Chi sbaglia si assumerà la responsabilità, avverte, dell'aggravamento della situazione sanitaria. Trovare l'equilibrio tra opposte esigenze è la comune richiesta dei sindaci lombardi nel secondo giorno di visita del premier, passato da Lodi a Piacenza a Cremona. I rappresentanti della prima area chiusa d'Italia gli hanno consegnato un elenco di richieste, come aveva già fatto il sindaco di Bergamo Gori, da finanziamenti ad hoc per l'area più colpita a un diverso costo per le mascherine. Nel momento in cui riapriamo scopriamo di non avere strumenti di conoscenza forse adeguati. Il rischio di un rialzo dei contagi è concreto e il premier Conte lo ha ricordato sottolineando l'importanza di avere un costante monitoraggio dalle regioni. Il rischio di un contagio di ritorno o comunque di una riesplosione di focolai è molto concreto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul nodo cruciale dei trasporti pubblici, le associazioni nazionali del settore avvertono nella fase 2 il distanziamento, che è appunto previsto dal piano di questa fase, è impossibile sui mezzi pubblici. Allora ne parleremo proprio con il presidente di una delle principali associazioni, che è Astra. Sul fronte economico, da Conte arriva intanto l'invito di fatto al sistema bancario perché faccia di tutto per facilitare la liquidità alle imprese. Stimolare la crescita ai tempi del coronavirus, il premier Giuseppe Conte chiede alle banche un atto d'amore per erogare liquidità alle imprese che ne hanno bisogno, mentre il governo destinerà circa 6 miliardi l'anno fino al 2031 a sostegno degli investimenti. Lo riferisce il ministro dell'economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera per il DEF. Si tratta per il 2020 di circa 75 miliardi aggiuntivi in termini di indebitamento netto e di circa 180 miliardi di stanziamenti di bilancio. Si tratta senza alcun dubbio di una manovra espansiva imponente, di una entità mai raggiunta dal dopoguerra ad oggi. Nel decreto aprile, che Gualtieri auspica venga approvato in settimana, saranno riproposte sospensioni, agevolazioni, semplificazioni fiscali e rinviati alcuni adempimenti come quelli amministrativi sulle accise. Tra le novità, lo stop all'IVA sulle mascherine per tutto il 2020, proroga di 2 mesi della NASPI, indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare, proroga della cassa integrazione, 800 euro di bonus autonomi che il ministro promette saranno erogati in 24 ore. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo le opposizioni criticano il governo e la maggioranza con Zingaretti invita alla concordia. La fase 2 annunciata dal Premier Conte non convince, le forze politiche critiche arrivano dall'opposizione ma anche dalla stessa maggioranza. Il governo calpesta la Costituzione, faccia un decreto vero e il Parlamento lo voti, dice il leader di Italia Viva Renzi. Il segretario del PD Zingaretti invece da un lato giudica troppo lontana la data di giugno per la ripresa delle attività ma dall'altro plaude alle scelte del governo. Credo che il tema delle riaperture e la prudenza usata dal governo sia stata una prudenza giusta. Basta vedere cosa sta accadendo in Germania e in altri paesi. All'attacco e soprattutto il centrodestra, nel pomeriggio alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia hanno protestato davanti a Palazzo Chigi, indossando le mascherine e rispettando le distanze di sicurezza. Critiche al nuovo DPCM arrivano poi dal leader di Forza Italia Berlusconi, ospite di 24 Mattino. Non mi convince affatto questa impostazione della fase 2, che mi pare molto confusa, mi pare incerta, piena di contraddizioni. Se c'è una cosa che fa male alle persone e alle imprese è proprio l'incertezza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in vista della fase 2 arrivano i dati dell'Istat. Sulla base della classificazione fornita dall'INAIL sui diversi gradi di rischiosità dei settori in cui operano, emerge che gli occupati uomini nel 62,9% dei casi lavorano in settori a basso rischio contro il 37% delle donne, che quindi rischiano di più. Questo ha detto il direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, in audizione sul DEF, sul documento di economia e finanza. Le donne, ha detto, con almeno un figlio di età inferiore poi ai 14 anni, che lavorano in settori di attività economica ad alto, medio, alto rischio per la propria sicurezza e salute, sono 752.000 e sono circa 319.000 le donne che hanno un figlio con meno di 6 anni e svolgono un lavoro altamente rischioso per la propria sicurezza. In questi casi, nota l'Istat, lo svantaggio è doppio: rischiosità elevata del luogo di lavoro e maggior carico familiare dovuto alla presenza di figli piccoli. Estero, 1 miliardo di persone in tutto il mondo potrebbero ammalarsi di coronavirus. È l'allarme contenuto in uno studio dell'ONG International Rescue Committee basato sui modelli e dati dell'OMS e sull'Imperial College di Londra, riportato in prima pagina dalla BBC sul suo sito. Secondo il rapporto si rischiano inoltre circa 3 milioni di vittime in decine di paesi attraversati da conflitti e paesi instabili. Diversi paesi con allo studio la fase 2, è il caso di Francia e Spagna tra l'altro, mentre la Germania frena dopo il rialzo dell'indice di contagio. Sentiamo il rapporto appunto su questi paesi. Proteggere, testare, isolare. Proteggere, testare, isolare. Su questi tre concetti si baserà la fase 2 dall'11 maggio in Francia, come comunicato nel pomeriggio dal premier Edouard Philippe, che davanti al Parlamento ha annunciato che verranno effettuati alla riapertura 700.000 test virologici alla settimana. Sarà libera la circolazione sotto i 100 km e riapriranno i negozi con differenze tra le regioni. Quanto alle scuole, la riapertura dell'11 maggio riguarderà solo materne ed elementari, ma su base facoltativa e graduale, ma, avvertito Philippe, tutto dipenderà dagli indicatori. Frena sulla ripartenza anche la Germania, che dopo aver riaperto i negozi lunedì scorso si ritrova con il tasso di contagi 1-1 dopo la sua discesa sino a 0,7. Nel pomeriggio la decisione di imporre la mascherina sui mezzi pubblici e in tutti i negozi della Germania senza differenze tra land. L'Austria invece annuncia lo sblocco a partire dal 1 maggio, imponendo però distanze minime e mascherine. Dalla Spagna la notizia che la riapertura sarà graduale tra le 6 e le 8 settimane fino ad arrivare ad una nuova normalità a fine giugno. Sono 210.000 intanto le vittime del coronavirus nel mondo, 56.000 negli Stati Uniti, 125.000 in Europa, 3 milioni contagi globali, ma, avverte uno studio dell'ONG International Rescue Committee, ad ammalarsi potrebbe essere 1 miliardo di persone. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso un'altra notizia dall'estero che riguarda la Corea del Nord. Il governo sa dove si trova Kim Jong-un, così il ministro dell'unificazione di Seoul, quindi della Corea del Sud, ha risposto in un'audizione in Parlamento nel mezzo delle voci più varie sullo stato di salute del leader nordcoreano che non si vede da un po'. Kim ha aggiunto, questo altro Kim che è appunto il ministro della Corea del Sud, ha aggiunto che il supremo comandante potrebbe aver saltato la cerimonia del 15 aprile dedicata al compleanno del nonno, fondatore dello Stato, per i timori del coronavirus e non perché malato. Di nuovo in Italia sono 61.863 i posti per bandi di concorso per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nella secondaria di primo e secondo grado, pubblicati oggi in Gazzetta Ufficiale. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento nella secondaria di primo e secondo grado. Intanto il governo lavora sul piano per l'infanzia, per la fase 2. Oggi l'incontro convocato dalla ministra per la famiglia, le pari opportunità Elena Bonetti con comuni, regioni e province. Centri estivi nei cortili delle scuole fruibili con il bonus babysitter. Questa è una delle misure al vaglio del governo per la messa a punto del piano infanzia e del decreto aprile in relazione alla fase 2. Stiamo lavorando ad un protocollo per i centri estivi, ha confermato il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, a disposizione cortili e giardini delle scuole da affidare a personale esterno, esclusi gli istituti impegnati nei lavori di edilizia necessari per settembre, ha spiegato il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, dopo l'incontro con i rappresentanti di regioni, comuni e province convocato dal ministro per la famiglia Elena Bonetti. Per il 4 maggio i genitori che tornano al lavoro devono poter contare su soluzioni per i figli, hanno ribadito gli enti locali, così il ministro poco prima del vertice a Radio 24. Ci sarà la possibilità di chiedere un congedo straordinario in una forma elastica, possibilità di prendere dei giorni, eventualmente delle ore, per poter rimanere a casa con i figli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il tema delle mascherine, saranno in vendita non più di 50 centesimi e soprattutto ci sarà una produzione di Stato da milioni di pezzi al giorno a prezzo concordato. Questo è il piano mascherine illustrato oggi dal commissario Arcuri. Nessuno pagherà da oggi le mascherine più di 50 centesimi in farmacia, al supermercato o altrove. Lo ha assicurato il commissario Domenico Arcuri dopo averlo stabilito con ordinanza. I farmacisti saranno indennizzati per quelle pagate di più e poi riforniti a un costo inferiore. Ma il punto chiave, ha spiegato Arcuri, è un altro. Spetta allo Stato incentivare una produzione nazionale a un costo inferiore ai 50 centesimi, garantirne l'acquisto e poi fornirle a regioni, ospedali, comuni. 108 imprese italiane hanno ottenuto gli incentivi per riconvertire la loro produzione. Gli abbiamo spiegato che compreremo tutto quello che loro produrranno. Abbiamo sottoscritto accordi con 5 imprese italiane che ci riforniranno a 0,39 euro. Già oggi, ha detto Arcuri, siamo in grado di distribuire alle regioni 4 milioni di mascherine al giorno. Da lunedì prossimo saliremo a 12 milioni al giorno, da giugno a 18, da luglio 25, da settembre 30 milioni al giorno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per chiudere lo sport, in Francia chiude il campionato, gli altri paesi dovranno decidere entro il 25 maggio. La Francia è il primo grande avamposto del calcio europeo che si arrende all'invasione coronata. Triste che ci si stia adeguando al linguaggio di cronache belliche, ma del resto solo le guerre avevano mai fermato lo sport. Francia, dove avevano lasciato in piedi fino a pochi giorni fa il tour estivo, è ricollocato d'imperio a settembre a Roland Garros. Francia, dove il governo ha deciso che c'è altro a cui pensare e la Ligue 1 finisce qui con la classifica scritta da 28 giocate giocate. Il Paris Saint-Germain sarebbe campione, ma con pochissimo da festeggiare perché rischia perdite per oltre 200 milioni. Ripartenza ad agosto con un campionato nuovo o con la coda di quello interrotto ancora non si sa, ma per questo l'impressione è che servirà una soluzione condivisa a livello europeo, perché è impossibile che qualcuno, perfino la Francia, programmi il calendario futuro come gli pare. Intanto l'UEFA fissa una deadline, entro il 25 maggio le varie leghe dovranno dire cosa intendono fare, cioè se chiudere o meno, capendo che se fosse tutto finito ora e qui, lo scenario economico per lo sport sarebbe quello di una città bombardata a tappeto. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, direi, qui si chiude questa prima parte di Effetto Notte della puntata, che tra poco procederà naturalmente con l'intervento man mano degli ospiti con cui affronterò diversi temi sempre in primo piano, sempre per lo più legati al coronavirus. Partiremo da appunto le reazioni alla fase 2, dalla politica, dalle regioni, dal mondo del commercio, e poi anche i vari passaggi di Conte, dei concetti che ha ribadito sulla fase 2. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime notizie che in parte avete sentito, insomma la maggior parte riassunte nella prima parte di questa puntata. Adesso invece con gli ospiti cominciamo ad addentrarci in alcuni temi, a partire appunto dalla politica di fronte all'annuncio di questa fase 2, alla necessità di pianificarla con prudenza, e dall'altra parte le richieste di aperture meno timide, questo difficilissimo equilibrio. Intanto accolgo così con un sorriso il messaggio di Matilde, mentre c'è questo ascoltatore o ascoltatrice, vediamo, apro questo messaggio, Roberto da Milano, che dice: ciao Roberta, si sono fatti pochi controlli, per non dire nulla, sui mezzi pubblici di superficie nel periodo del lockdown, soprattutto nei turni di notte. Il 50% viaggia senza necessità o lo fa per eludere i blocchi delle forze dell'ordine, figuriamoci dal 4 maggio, ci vogliono fatti non parole. Questa è l'opinione di Roberto. Poi parleremo appunto del nodo cruciale dei mezzi di trasporto. Adesso, vi dicevo, concentriamoci sulla pagina politica. Il rischio di un contagio di ritorno, comunque di una riesplosione di focolai che possano riesplodere per quanto riguarda questa epidemia, è molto concreto. È molto concreto, è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure, ma anche con prudenza. Tornato ancora a ribadirlo Conte, di fronte a tutte le polemiche, allo scontento dei cittadini, delle varie categorie, dei lavoratori, imprenditoriali eccetera, e dell'opposizione, ma anche delle forze all'interno del governo. Insomma, diciamo che è abbastanza pressato in questo momento il Presidente del Consiglio, però torna a ribadire che non si poteva fare diversamente, che non si potevano fare delle aperture più disinvolte, diciamo, più forti rispetto a quello che è stato deciso per il prossimo 4 maggio ed è stato annunciato appunto domenica. Poi sapete che ci sono vari step, varie tranche dal 4 maggio, poi il 18 maggio altre attività e poi dal 1 giugno. Saluto intanto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera. Tra l'altro, ieri, dopo che anche la CEI, la Conferenza dei Vescovi, aveva criticato il fatto che ancora non si desse il permesso di riaprire le chiese per le messe, oggi il Papa sembra tendere un po' la mano verso il governo, dicendo: in questa fase servono prudenza e obbedienza alle regole, ha detto Papa Francesco. E poi c'è la scienza. È stato consegnato un rapporto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità al governo. Ecco che cosa ha fatto decidere il governo, diciamo, su una linea più prudente, perché si prevedono vari scenari. Nel peggiore si prevede che, a fronte di una riapertura anche delle scuole, l'indice di contagio in Italia tornerebbe sopra il valore 2 e le terapie intensive raggiungerebbero la saturazione entro un mese. Allora, fare sentire ancora un passaggio di Conte fra i tanti. Oggi era, per esempio, è tornato in Lombardia a Lodi, dopo essere stato a Genova per la cerimonia dell'ultimazione delle campate del Ponte di Genova, di cui poi parleremo, e ha detto: io non godo a tenere gli italiani chiusi. Se la situazione rimarrà sotto controllo, continueremo a fare dei passi significativi e speriamo, io sono il primo che vorrebbe allentare tutte le misure, non godo affatto sul fatto di tenere il paese ancora, diciamo, limitato alcune sue componenti per quanto riguarda la libertà di movimento o altro. Però per adesso dobbiamo ancora procedere così. Ma Salvini la pensa diversamente. Adesso io penso che si sia superato il limite. Mi viene il dubbio, e sta venendo a tanti italiani, che qualcuno rimandi in là la palla e la riapertura, perché a qualcuno fa comodo tenere gli italiani chiusi in casa. Ma io questo non ci posso credere, onorevole Salvini. E poi Conte torna a dire: i cittadini sono scontenti, ma noi dobbiamo tutelare la salute. Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi dispiace tanto, ma vi assicuro che noi abbiamo sempre come obiettivo prioritario tutelare la salute di tutti voi cittadini. Non possiamo da una settimana all'altra cambiare obiettivo, dismetterlo e accantonarlo. Lo dobbiamo per rispetto ai morti e decessi che ci sono stati, ai nostri familiari, ai nonni, ai genitori, lo dobbiamo per rispetto a noi stessi, che ovviamente siamo ancora tutti bisognosi di essere protetti. Vanno tra l'altro sottolineate anche alcune cose, che per esempio il virologo super esperto della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha detto: la seconda ondata è inevitabile, il virus non sparirà dal pianeta, ha detto oggi. Poi c'è la ONG Rescue Committee, ONG internazionale, che oggi ha detto: il virus potrebbe colpire 1 miliardo di persone nel mondo e si rischiano 3 milioni di morti nei paesi instabili o attraversati dalle guerre. Poi ci sono due paesi come la Francia, che aveva annunciato riapertura riaperture delle scuole già in questi giorni, poi a partire dall'11 maggio. Oggi il primo ministro Philippe ha un po' frenato, ha detto beh, adesso ci orienteremo in base ai dati, se per l'11 maggio non ci saranno dei dati confortanti, rassicuranti, non apriremo nulla. E poi c'è la Germania, che aveva cominciato nei giorni scorsi a riaprire un po' di più, e però oggi è arrivata quella che molti hanno definito una doccia fredda, nel senso che l'indice di contagio, R0, cioè la contagiosità di una persona rispetto agli altri, quante persone può contagiare, è ritornato a 1, poi poco fa è sceso leggermente a 0,9, ma insomma siamo lì. Barbara, quindi questo difficilissimo equilibrio di dover mantenere da una parte, di non scontentare le varie categorie, soprattutto di non far andare a picco l'economia in Italia, dall'altra però sapere che il margine così di movimento rispetto al virus sulla salute e sulla sicurezza è proprio margine di movimento veramente ristretto. Sì, sì, il problema è che il governo è in una morsa. Da un lato appunto il pressing più che giustificato da parte di numerose categorie, pensiamo oltre alle grandi imprese, ma a tutto quello che riguarda il commercio, il turismo, sono settori in ginocchio, e chiaramente ogni giorno che passa il rischio di rimanere chiusi, di non tornare a rialzare le saracinesche degli esercizi si fa sempre più alto. Quindi da un lato questa pressione, dall'altro allo stesso tempo però ci sono le bare di Bergamo, mi viene da dire, a ricordarci che insomma portate via coi camion di notte. Sì, a ricordarci che insomma non ne siamo fuori, non ne saremo ancora fuori per tanto tempo, e quindi trovare un equilibrio tra queste due legittime esigenze entrambe è difficilissimo. Chiaramente non vorremmo essere in Conte, diciamo, in questo momento, perché tra l'altro è una situazione, sì, non solo insomma mai vista prima, ma è proprio difficilissima, perché pensiamo per esempio a tutta la polemica sulle funzioni religiose, no? Ma è chiaro che abbiamo parlato ieri, infatti. Sì, anche lì. Per esempio in Francia hanno deciso di tenere le chiese aperte, però di non fare le funzioni, perché insomma poi nel momento in cui si celebra la messa, si dà la comunione, cioè tutti sciamano verso e insomma si rischia. Tra l'altro ieri avevo detto che probabilmente la mossa è stata fatta anche perché soprattutto in Italia almeno le persone più grandi di età vanno a messa con una certa continuità, e quindi forse il rischio è maggiore. Però a parte questo, dicevo, Barbara, Conte assediato anche perché non solo le regioni, non solo l'opposizione con Salvini e Meloni in particolare, oggi tra l'altro Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha fatto un flash mob con alcuni parlamentari proprio davanti a Palazzo Chigi per protestare contro queste riaperture, secondo Fratelli d'Italia, timide. E proprio ieri Salvini aveva minacciato di scendere in piazza con le mascherine, però poi Meloni aveva detto no, non è il caso in questo momento così di tensione, poi lo ha fatto, diciamo, abbastanza pacificamente, ha preceduto Salvini, e però intanto c'è Forza Italia che si mantiene sempre nel ruolo, diciamo, di responsabili, non responsabili quelli che sostengono il governo di cui si parlava prima di questa pandemia, ma nel senso di dire non sosterremo mai questo governo, ma in questo momento non ci sentiamo insomma di mettere i bastoni tra le ruote. Però anche dal PD mi sembra, Barbara, che arrivino delle critiche allo stesso Conte, nonostante facciano parte pienamente del governo. Marcucci, mi sembra, poco fa, che è il capogruppo del Partito Democratico, ecco, dice, eccolo qua, l'ho ritrovata la dichiarazione. Dice: credo che Conte abbia sbagliato sul cronoprogramma della fase 2. La riapertura di bar e ristoranti il 1 giugno temo sia troppo lontana. Il decreto del presidente scade il 17 maggio. Lasciamoci lo spazio per decidere di volta in volta se ci sono margini per aprire prima o per testare le aperture nelle regioni dove la curva epidemiologica è più rassicurante. Anche se oggi più volte il ministro per gli affari regionali Boccia, sempre del PD, ha detto sulla differenziazione delle regioni lo vedremo dopo il 18 maggio. Insomma, c'è abbastanza tensione e frizione anche nel governo, Barbara, per Conte? Sì, perché è evidente che poi è un conto chi è al governo e deve assumere delle decisioni, deve dire dei sì e dei no, e chi invece, seppure fa parte della maggioranza, ma come dire, non ha in quel momento un ruolo decisionale. Io penso che All'inizio, se ricordiamo, qualche settimana fa, quando si parlava di questa fase 2, e lì secondo me è stato il principale errore del governo, cioè aver alzato moltissimo le aspettative. Le persone ritenevano che dal 4 maggio, come dire, non che fosse come prima, però insomma si tornava a una normalità, e lo stiamo vedendo nelle nostre città, credo ciascuno di noi in questi giorni, anche se ancora il nuovo decreto non è entrato in vigore. Sì, sì, a Milano vede, diciamo che sì, è molto più vitale di qualche giorno fa. Si vede molta più gente in giro, sì, sì, di quanto avvenisse nei giorni precedenti, quindi il messaggio anche che anche se è non passato, è già il 4 maggio infatti. Sì, il messaggio che è passato è quello di un allentamento, e questo può essere molto preoccupante e pericoloso, come abbiamo visto sta accadendo in Germania e in Francia, dove la curva in Germania ha ripreso a salire e quindi stanno già ripensando a misure di lockdown. Questo, diciamo, aperture e chiusure può essere molto pericoloso anche per la stessa economia, perché pensiamo a tutto il sacrificio fatto, no? Anche da imprenditori, da datori di lavoro, da appunto dai negozianti che sono ancora chiusi, cosa potrebbe accadere se, come dire, si ricomincia e poi ci si deve fermare un'altra volta, il danno sarebbe ancora più forte, inevitabilmente, anche semplicemente a livello psicologico, perché ci taglierebbe le gambe. Quindi è chiaro che è una situazione in itinere e tutti vorremmo l'assoluta libertà, tutti vorremmo la libertà, io in primis in questo momento, che tanto che non vedo per esempio la mia mamma che è a Bergamo, che non vado a correre, che sono una sportiva da quando ero bambina, però ci rendiamo conto che effettivamente, anche io ho visto a Milano già da qualche giorno la città che sta riprendendo, non dico nel pieno, ma insomma quando ancora non è arrivata l'inizio della fase 2 che sarebbe il 4 sì, maggio. Quindi Barbara, però farei sentire anche Conte, dove dice che i lavoratori che già ricominceranno dal 4 maggio sono 4 milioni e mezzo, quindi già di tanta gente che si riversa nelle strade, sui mezzi di trasporto, nei luoghi di lavoro. Abbiamo visto anche in altri paesi cosa significa cambiare strategia o comunque quali rischi si affrontano. Noi stiamo già affrontando adesso un rischio. Guardate che dal 4 maggio 4 milioni e mezzo di lavoratori, forse questo messaggio non è ancora passato, 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori torneranno a lavorare, prenderanno mezzi pubblici, non solo privati, per andare a lavorare. E attenzione, anche il mezzo privato potrebbe essere un focolaio, un'occasione di contagio. Quindi è chiaro che creeremo più occasioni di contagio. E la ragione per cui le scuole devono rimanere chiuse, e la ragione per cui non abbiamo potuto allentare sul piano delle relazioni di comunità, degli scambi sociali, non abbiamo potuto allentare le misure. E poi dice comunque, insomma, cercheremo di dare delle risposte alle varie categorie sociali che sono tante. Le sofferenze sono tali e sono così diffuse che è difficile rispondere a tutte le richieste, ma sicuramente cercheremo di intervenire in modo serio, in modo sostanzioso e incisivo per la gran parte delle fasce sociali, delle categorie professionali che sono in difficoltà. Poi Conte ha anche sottolineato che verranno fatti tamponi, test sierologici, che è quello che aspettiamo in effetti che sia organizzato, perché per monitorare insomma la popolazione e tenere sotto controllo la diffusione del contagio, no? Anche questa cosa va organizzata come i trasporti, di cui parlerò dopo con l'associazione nazionale. Ma poi ha detto siamo pronti a chiudere i rubinetti se succedesse qualcosa, se ci fossero nuovi focolai. Ti voglio dire però ancora in un minuto, Barbara, perché abbiamo pochissimo tempo, sia Renzi ha parlato più volte di Conte come qualcuno che calpesta la Costituzione, e poco fa però anche la Presidente del Senato Casellati di Forza Italia ha detto il Parlamento è escluso, ma questo è il cuore della democrazia e quindi deve essere di nuovo coinvolto. Eh sì, anche è stato presentato anche una richiesta proprio di parlamentarizzazione dei DPCM, questi futuri, decreti Presidente del Consiglio. Nel senso che di fare delle vere e proprie dei decreti legge, cioè che il Parlamento li esamini, perché il DPCM è una sorta di ordinanza che fa appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri, però non passa per il Parlamento, no? Quindi questo provvedimento che entra in vigore il 4 maggio, con le misure del 4 maggio, non è che passa per il Parlamento, non è emendabile, quindi è una decisione del Governo. E da questo punto di vista i parlamentari, anche di maggioranza, chiedono un passaggio parlamentare, quindi significa che i futuri provvedimenti devono essere, come dire, fatti propri da un provvedimento legislativo, quindi un decreto legge o un disegno di legge, ma immagino un decreto se deve essere di rapida immediata attuazione. L'altra cosa che volevo dire, velocissima, Barbara, sì. Sì, l'altra cosa che volevo dire è che chiaramente Conte in questa fase ha una difficoltà oggettiva, perché è inevitabile che su di lui si stia concentrando, come dire, anche il malessere, no? Sia di chi dall'opposizione non trova spazio sufficiente per riaffermare le proprie posizioni, penso a Salvini, sia dall'altra parte della maggioranza, che teme invece che poi una volta che insomma si percepisca tutta la potenza di questa crisi economica, la responsabilità gli ricada addosso anche da un punto di vista di consenso elettorale, mancato consenso elettorale. Barbara, c'è chi scrive: veramente non è stato inviato un messaggio sbagliato, ma è stato frainteso dai più, la solita stupida impazienza degli italiani, dice Luigi, che io si tolgono le cinture cosa, prima che atterri l'aereo. Aspetta, e poi anche un'altra ascoltatrice dice: invece secondo me appunto il messaggio di preavviso del governo era molto chiaro, io non mi aspettavo più libertà, credo che molti abbiano voluto sentire quello che gli faceva comodo. Poi per chiudere, Barbara, c'è questo ascoltatore che dice: complimenti, lei, Roberta e Barbara, siete una coppia di centravanti di alto livello, quindi possiamo andare appena possibile nel campetto, Barbara, assieme siete il clou della trasmissione. Mauro Maffei da Torino, classe 1949, ci ha tenuto anche a dire di che anno è. Bene Barbara, io direi che con questo complimento possiamo lasciarci senza aggiungere altro. Ma certo, lo ringraziamo tantissimo. Bene, un abbraccio a Mauro e a Barbara, a presto, ciao Barbara. Pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, qui ad ascoltare Effetto Notte, Roberto Giordano con voi e anche a casa naturalmente, anche questo è un posto giusto, almeno fino al 4 maggio, poi cominceremo piano piano, ma insomma con prudenza come abbiamo sottolineato fino adesso. Farei sentire a questo proposito anche una scienziata come Ilaria Capua, che vedo sulla 7, vediamo cosa sta dicendo in questo momento. Non solo, anche a New York e anche a Madrid. Allora la chiave diventa quanto noi siamo in grado di reagire al peggio che può succedere. Lei dice in qualche misura ci stiamo sempre più strutturando. L'altra grande paura, la seconda ondata, il ritorno del virus che qualcuno dà dopo l'estate, qualcuno dice potrebbe anche essere immediato, già abbiamo visto degli studi che dicevano attenzione perché se aprite può succedere di tutto. Lei come lo vede? Quanto è alto il rischio di un'ondata di ritorno? Allora, è verosimile una ondata di ritorno, però ricordo ai telespettatori e telespettatrici che noi questo virus lo conosciamo pochissimo e quello che possiamo dire lo possiamo dire sulla base soprattutto di quello che abbiamo visto in passato. Quindi, quando un virus si endemizza all'interno di una popolazione, fino a quando il rapporto fra circolazione virale e immunità di gregge non si equilibra, si continueranno ad avere dei casi. Quindi io credo che durante adesso la tarda primavera e l'estate ci saranno alcuni casi, che però mi auguro non saranno numericamente così rilevanti da ingorgare gli ospedali. A settembre sarebbe opportuno partire con un piano di preparazione alla seconda ondata che potrebbe avvenire. Come si fa a evitare... Bene, questa è Ilaria Capua, scienziata italiana che sta negli Stati Uniti. A questo proposito anche lei insomma quindi ha parlato di cautela, di prudenza, sperando appunto che si comporti questo virus come altri, allentando un po' la sua presa almeno quando arriva proprio il caldo. Però al di là di tutto, parlavamo appunto di questa fase 2 di cui si continua a parlare finché non arriverà il 4 maggio, un nodo importantissimo, cruciale, e lo si è ripetuto più volte, per organizzare, avviare la sospirata fase 2 è la pianificazione, quindi l'adeguamento e la messa in sicurezza del trasporto pubblico, perché immaginate se partono questi nuovi 4 milioni e mezzo di persone che si rimettono in circolo, come diceva Conte, questi lavoratori che tornano al lavoro, quindi per forza per le strade, sui mezzi di trasporto, molti con i mezzi di trasporto pubblico si rimetteranno in moto per tornare sui luoghi di lavoro. Quindi il tempo stringe, dal momento che il 4 maggio praticamente è domani la prima tranche di questa fase 2, ma i presidenti di Agens e Astra, ovvero le associazioni nazionali delle aziende del trasporto pubblico locale, hanno scritto una lettera alla ministra dei trasporti Paola De Micheli dicendo: i mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di soddisfare i requisiti di distanziamento sociale richiesti dal governo. Allora chiedo conferma ad Andrea Gibelli, che è presidente di Astra, appunto associazione trasporti, che è un'associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli enti locali che private. Presidente Gibelli, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, insomma, siete preoccupati per come potrà ripartire in sicurezza il trasporto pubblico? Sì, siamo preoccupati perché le disposizioni che stanno emergendo non fanno bene né al TPL né al Paese. Nel senso che ci siamo preoccupati principalmente di offrire la nostra esperienza, almeno come Astra, che raggruppa più di 150 realtà diverse distribuite sul territorio, di far comprendere che il cosiddetto metro di distanza sociale, se è accoglibile a terra, e per noi per terra intendiamo pensiline e spazi nelle stazioni con segnalamenti coerenti, diciamo, con le disposizioni sanitarie, la cosa diventa molto complicata affrontando il tema del distanziamento a bordo dei mezzi. E abbiamo avanzato una soluzione diversa, che purtroppo ad oggi non è stata accolta, quella dell'uso obbligatorio della mascherina a bordo dei nostri mezzi, perché se non sarà così, portare solo un terzo delle persone e senza la mascherina riteniamo che sia un contributo, essendo noi servizi essenziali, non sufficiente alla ripartenza. Però Gibelli, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, che almeno dalla fase 2 del 4 maggio sia ritenuta obbligatoria sui mezzi pubblici la mascherina in Italia, no? Non le risulta? No, è un'indicazione che non è chiara, ma ad oggi la previsione dell'obbligatorietà è prevista solo per il trasporto aereo, per il TPL invece è cioè una per il trasporto pubblico locale, non è Non è una facoltà lasciata al singolo. Noi vorremmo che venisse adottato un principio della massima precauzione, non quello del minor rischio. Questo comporterebbe anche la possibilità di gestire meglio gli spazi, perché non sono stati progettati gli autobus e i treni per consentire nei normali spostamenti tra le uscite, le sedute o le zone, soprattutto nell'urbano dove si staziona in piedi, per garantire effettivamente il metro, e questo è un tema che è ancora aperto. Senta, e voi come Agens e Astra, quindi avete scritto questa lettera alla ministra De Micheli, aspettate una risposta entro breve, visto che il 4 maggio, dicevo, è praticamente dietro l'angolo, Gibelli? Diciamo che con il ministro De Micheli abbiamo avuto una call molto costruttiva la settimana scorsa, di questa la ringraziamo, e ha ben presente le difficoltà del nostro settore. La lettera in realtà serve a dare il senso di una ricognizione delle questioni aperte, quindi le cose riportate nella lettera sono già state trasferite. Il ministro, perché questo lo devo dire con onestà intellettuale, ha riferito a tutti che il problema esiste, che il problema è presente, ma in questo momento adottano il criterio di natura sanitaria. A noi va bene, perché ovviamente quello del metro indifferenziato, il metro indifferenziato. Noi gli abbiamo ribadito che il combinato disposto tra la distanza indifferenziata e i nostri mezzi non facciamo un servizio al paese, perché siamo nelle condizioni di dimostrare che sia per autobus che treni è impraticabile. Quindi ci attendiamo non una risposta immediata, anche se sarà gradita ovviamente, ma che si ritorni a breve al tavolo per individuare soluzioni. Noi riteniamo che una delle soluzioni sia quella di considerare la mascherina, come dicevo prima, un elemento a maggior garanzia, anche per trasferire un messaggio di sicurezza all'utenza, che oggi alcuni osservatori vedono molto portata all'utilizzo del mezzo privato. Invece il mezzo pubblico è sicuro perché lo sanifichiamo, perché siamo nelle condizioni di garantire un servizio adeguato con le necessità sanitarie che sono assolutamente alla base del servizio pubblico. Quindi voi Gibelli, come Agis, come Astra, come associazioni nazionali insomma del settore del trasporto pubblico locale, chiedete mascherine obbligatorie e poi di ritornare al tavolo con il governo, con i rappresentanti del governo, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per capire come meglio organizzare, perché avete notato appunto queste criticità che diceva e sono estremamente importanti, visto che appunto poi col ritorno al lavoro si ritorna a utilizzare i mezzi pubblici di trasporto. Grazie intanto Andrea Gibelli e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Viabilità. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, c'è Matilde fra i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 che dice un po' di camionette militari oltre agli autobus, quindi insomma controllo da parte dell'esercito. E poi invece c'è un altro ascoltatore che scrive: il primo passo è rendere obbligatorio la mascherina e sanzionare chi non la porta sia in posti pubblici sia privati. Per il momento appunto si parla di trasporto pubblico e nei luoghi chiusi, poi in certe regioni è obbligatorio, anche se molti virologi non sono molto d'accordo sul fatto che quando uno cammina per strada lontano dagli altri abbia sempre sulla faccia questa mascherina. Però adesso ci trasferiamo invece in Germania, ci colleghiamo con la nostra Isabella Bufacchi. Ciao Isabella, ben ritrovata. Ciao, buonasera a tutti. Allora, la situazione in Germania. Sappiamo che la Germania è tra i paesi che sinora hanno gestito al meglio l'epidemia di coronavirus. Per questo hanno avviato, anche se molte attività non si sono mai fermate, insomma hanno riavviato nei giorni scorsi varie riaperture. Oggi però c'è stata insomma una delusione, una doccia fredda, come è stata definita in questa ripartenza della Germania, perché il tasso di contagio da coronavirus è risalito a 1. Poi, poco prima di effetto notte, è risceso visto a 0,9, insomma non molto più basso del contagio a 1, e quindi insomma diciamo c'è stata un po' di preoccupazione anche dagli altri paesi che guardano alla Germania come un modello anche per seguire il suo percorso da questo punto in poi, no? Poi abbiamo parlato anche della Francia, ma che cosa sta succedendo adesso in Germania quindi, Isabella? Beh, la Germania sta procedendo in maniera molto cauta perché loro stessi non si vantano di quello che può sembrare un successo. Angela Merkel, la cancelliera, dice sempre: siamo agli inizi, non sappiamo quello che arriverà. Quindi anche questo lento allentamento delle restrizioni lo stanno facendo in maniera molto leggera, però ricordiamolo che loro vengono comunque da un lockdown, quindi da un periodo di chiusura diverso dal nostro, perché in realtà qui si punta molto sulla distanza di sicurezza, quindi c'è stata un po' di libertà di movimento comunque anche in questo mese di chiusura. Si poteva uscire in due senza che le due persone fossero legate da D'affetti stabili, insomma. Come... Ma, no, non c'è la polemica qui in Italia. Instabili, ma nessuno te lo viene a chiedere. Cioè, se esci in cinque con madre, padre e figli, sì, ma in due sei sempre potuti uscire. Qui c'è il grande caso di questa, comunque, di passare appunto a un allentamento delle restrizioni con invece un'imposizione. Quindi i tedeschi fanno sempre bastone e carota, quindi vi lasciamo andare nei negozi, però dovete portare la mascherina. Qui c'è stato un grande caso, perché le mascherine non si trovano, dove sono, non le abbiamo tutti. Dove come anche vanno in Italia portate. E in altre parti del mondo, sì, è stato esatto, insomma, grande assente. Hanno fatto, però secondo me ne stanno uscendo fuori abbastanza bene. Cioè, innanzitutto hanno detto che va bene anche se non hai una mascherina acquistata o di quelle, diciamo, ufficiali, così speciali, le puoi fare anche a casa, ma va bene anche una sciarpa, un foulard, purché tu copra naso e bocca. Poi però sono obbligatorie nei mezzi pubblici e nei negozi. Quindi già questo, in realtà i tedeschi, che finora potevano un po' uscire per fare una passeggiata, comprare, andare soltanto a comprare alimenti oppure medicinali, hanno adesso più libertà, possono andare in negozi che sono fino a 800 metri quadrati, però devono portare la mascherina, quindi hanno chiesto qualcosa in cambio di questa libertà in più, proprio per cercare di contenere i contagi. E qui diciamo che il punto preoccupante è uno, da uno in su. Hanno detto che quando si vede lo zero si può stare abbastanza tranquilli, quindi diciamo questo 0,9 come livello di contagiosità. Sì, sì. Questo 0,9 non è uno zero, insomma. Non è uno, no, però finché si sa lo 0, va bene. Da uno in su bisogna iniziare a preoccuparci. Però ricordiamo anche che Angela Merkel ha detto: finora chiunque si è ammalato di coronavirus in Germania ha avuto tutta l'assistenza sanitaria possibile, anche con la terapia intensiva, anche con la ventilazione polmonare, e quindi hanno quasi raddoppiato i letti in terapia intensiva, e adesso ne hanno, io controllavo oggi, 13.000 liberi, e secondo me questo è un po' un margine che si sono dati. Cioè, sì. Noi, finché c'è tutta questa le restrizioni, sappiamo però che c'è una disponibilità di terapia intensiva nel caso succedesse qualcosa. Insomma, vediamo, stiamo a vedere un po', naturalmente augurando tutto il meglio anche ai tedeschi, perché ovviamente non è mal comune mezzo gaudio, anzi il contrario. Grazie Isabella Buffacchi, un abbraccio a te. Grazie, ciao Isabella. Buonasera a tutti. Grazie. La mia presenza qui oggi è testimonianza del fatto che lo Stato non ha mai abbandonato Genova, quindi questa presenza è doverosa, ma sono qui anche con grande piacere, perché oggi noi suturiamo una ferita perché ricongiungiamo una fondamentale arteria di comunicazione al centro, nel cuore di questa comunità e di questa città. E questo è un passaggio del discorso che oggi a Genova ha tenuto il presidente del Consiglio Conte in occasione del varo della 19ª ultima campata d'acciaio del nuovo ponte del capoluogo ligure. Ora il tracciato del nuovo ponte quindi è completato, e questo a meno di 2 anni dal crollo, da quel terribile crollo in cui persero la vita 43 persone. E poi torneremo anche sugli sviluppi dell'inchiesta che deve chiarire le responsabilità di quella tragedia, di quei morti. Però intanto col nostro Andrea Ferro, che saluto, ciao Andrea. Sì, buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Parliamo di questo giorno importante per Genova e per l'Italia. Beh, assolutamente sì, un giorno dalla valenza fisica, plastica, perché comunque rivedere il ponte sopra il Polcevera ha un significato materiale che poi si concretizzerà intorno a metà luglio con le prime auto che appunto inizieranno a circolare sul ponte, ma anche molto simbolico perché chiaramente, dicevi, cade questo giorno meno di 2 anni dopo la tragedia del 14 agosto 2018 e un altro, diciamo, numero importante che scandisce i tempi di quest'opera è il numero 310, cioè 310 sono i giorni di lavoro che sono stati necessari per realizzare questo ponte. Chiaramente dal primo giorno è stato il giorno del getto della prima colata di cemento sulle fondamenta delle pile. È una impresa, diciamo così, per i tempi biblici che caratterizzano le nostre opere pubbliche. Chiaramente grazie ai poteri speciali che ha avuto il commissario straordinario si è potuta sconfiggere, diciamo così, l'offensiva peggiore, cioè quella di fronte alle grandi opere, che è la burocrazia, percorsi assolutamente accelerati, e poi indubbiamente la grande maestria, la competenza, il genio italico che ha poi condotto a questo risultato straordinario. Chiaramente sempre nella memoria, nel ricordo, come dicevi, delle 43 vite spezzate dal crollo del 14 agosto. Abbiamo sentito appunto le parole di Conte, ma c'è grande soddisfazione chiaramente a livello cittadino per un primato, appunto quello di essere riusciti a ricostruire un ponte in 310 giorni, e poi il fatto che tutto questo avvenga in un momento in cui il paese è stretto in un'emergenza terribile, quell'emergenza che hai raccontato fino a pochi istanti fa, chiaramente ha un valore ulteriore simbolico di futuro, di voglia di fare, di speranza, di reazione, la capacità di rinascita, di rialzarsi, di rialzarsi un paese, come ha sottolineato Conte, che non si abbatte, che sa rialzarsi. È chiaramente una metafora che in questo momento cade purtroppo in maniera tempestiva per il periodo così grave, così difficile che stiamo vivendo. Poi come ci sarà paese. Modo, Andrea Ferro, di tornare sui sviluppi dell'inchiesta, perché come poi ha sottolineato oggi Conte, naturalmente vanno ancora cercate e verificate le responsabilità, perché qualcuno sarà pur responsabile assolutamente di quello che è successo. Sì, assolutamente sì. Bene, però qui ci dobbiamo. Al giorno della soddisfazione, diciamo, per quello che si è riusciti a fare, oltretutto con tutta una serie di difficoltà, perché c'è stato il maltempo in autunno, poi c'è stato un incendio e poi c'è stata appunto anche questa emergenza sanitaria che ha complicato un po' le cose in cantiere. Pensate, che però immaginare... sono andate avanti. Andrea, ci dobbiamo lasciare. Certo, grazie certo. Da Genova, un abbraccio Ciao. Anche a Genova e a te. Un abbraccio a tutti voi. Sentiamo tra poco.